Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni, introduzione di Stefano Gallerani. Nel 1867 l'Austria esce sconfitta dalla guerra austro-prussiana, scioglie la Confederazione Germanica ed annette l'Ungheria, dando vita così all'impero d'Austria ed Ungheria. Francesco Giuseppe consolida in questo modo il potere degli Asburgo nella Mitteleuropa, riconoscendo costituzioni diverse e parlamenti separati alla Transleitania, cioè l'Ungheria da un lato, e alla Cisleitania, cioè l'Austria dall'altro. Si avvia così, o almeno sembra avviarsi, un periodo di equilibrio che fa dimenticare i recenti tumulti della rivoluzione del 48, ma il monumento politico di Francesco Giuseppe, il monumento politico dell'Aquila Asburgica, l'Aquila Bicipide che figge il casato degli Asburgo, poggia in realtà su fondamenta instabili. Le inquietudini delle province infatti alimentano i nascenti movimenti nazionalistici e l'inizio dell'impero non è in realtà che il tramonto di un'epoca. Eppure, apparentemente attraverso un intricato sistema di intese politiche, un gioco di alleanze europee, si pensi per esempio all'alleanza stipulata con l'Italia e la Germania, l'impero riesce a mantenere una certa parvenza di stabilità, almeno è un'apparenza, e soprattutto al centro, nella capitale, a Vienna, che pure, e non a caso, proprio in questo periodo si prepara a divenire il palcoscenico di molte tra le più importanti innovazioni artistiche e culturali del Novecento. La popolazione non sembra nemmeno accorgersi di questo fermento che va preparandosi. Come ha scritto Robert Musil, i tempi correvano alla velocità di un cammello ed era difficile distinguere il sopra dal sotto, le cose in regresso dalle cose in progresso. Lo stato delle cose si nasconde infatti dietro la menzogna propagandistica. La verità è mascherata dall'illusione di una moda decadente, contro cui si scaglia per esempio il furore invettivo di Karl Kraus. In questo clima la coscienza politica dell'élite latita e i giovani aristocratici, nati nell'ultimo quarto del XIX secolo, crescono in una situazione quantomeno di edonismo statico, amorfo. Non sono più da tempo il baricentro di una collettività e con essi è in crisi un'intera civiltà, un intero sistema politico. Puntuale ed accurato cronista di questa lenta sospensione che precede il collasso dell'impero, che quasi lo prepara, Joseph Roth, lo scrittore austriaco d'origine slovena nato nel 1894, testimonia, con la propria esistenza ancor prima che con la propria opera, la parabola discendente che piegherà l'impero asburgico, così come anche la civiltà ebraica dell'Europa orientale, verso il precipizio della Prima Guerra Mondiale, fino all'avvento del nazismo in pratica. E se tutta la sua produzione maggiore, dalla Marcia di Radetzky del 32 alla 1002esima notte, ad esempio, del 39, evoca appassionatamente la leggenda del mito asburgico, pure probabilmente nessun libro più della Cripta dei Cappuccini, scritto nel 1938, rende il senso e la profonda umanità, la realtà di questa tragedia. Nelle vicende del protagonista del romanzo, Francesco Ferdinando Trotta, storia pubblica e storia privata si confondono fino ad identificarsi. Negli stati profondi della sua anima, come in quella dei suoi giovani aristocratici amici, presuntuosamente malinconici, dice Roth, colpevolmente ignavi, arrogantemente dissipati, sono sopite quelle certezze che la gente chiama presentimenti e che nel giro di pochi anni la brutalità dei fatti non tarderà a confermare. Ma adesso vi lascio alla lettura di Luciano Virgilio. Buon ascolto. Thank you. Il nostro nome è Trotta. La nostra casa è originaria di Sipolje, in Slovenia. Casata, dico, perché noi non siamo una famiglia. Sipolje non esiste più, da tempo ormai. Oggi, insieme con parecchi comuni limitrofi, forma un centro più grosso. Si sa, è la volontà dei tempi. Gli uomini non sanno stare soli. Si uniscono in assurdi aggruppamenti e soli non sanno stare neanche i villaggi. Nascono così entità assurde. I contadini sono attratti dalla città e gli stessi villaggi aspirano per l'appunto a diventare città. Tuttavia ho conosciuto Sipolje quando ero ragazzo. Una volta mio padre mi ci portò, un 17 di agosto, la vigilia di quel giorno in cui in tutta la monarchia, anche nei paesi più piccoli, si festeggiava il compleanno dell'imperatore Francesco Giuseppe I. Nell'odierna Austria e negli ex territori della corona saranno ormai poche le persone nelle quali il nome della nostra casata risvegli una qualche memoria. Però è registrato negli annali ormai dimenticati del vecchio esercito austro-ungarico e confesso che ne sono orgoglioso, proprio perché quegli annali sono dimenticati. Io non sono un figlio del mio tempo, anzi, mi riesce difficile non definirmi addirittura suo nemico. Non che io non lo capisca, come tante volte sostengo, questa è solo una scusa di comodo, per indolenza semplicemente. Non voglio essere aggressivo o astioso e perciò dico che una cosa non la capisco quando dovrei dire che la odio o la disprezzo. Ho l'orecchio fine, ma faccio il sordo. Mi pare più elegante fingere un difetto che ammettere di aver sentito rumori volgari. Il fratello di mio nonno era quel semplice sottotenente di fanteria che nella battaglia di Solferino salvò la vita all'imperatore Francesco Giuseppe. Al sottotenente fu conferito un titolo nobiliare. Per lungo tempo, nell'esercito e nei libri di lettura della imperiale regia monarchia, egli fu chiamato l'eroe di Solferino, finché, come era suo stesso desiderio, calò su di lui l'ombra dell'oblio. Dette le dimissioni. È sepolto a Itzing. Sulla sua lapide sono incise le semplici e fiere parole: qui riposa l'eroe di Solferino. La grazia dell'imperatore si estese anche al figlio, che diventò sottoprefetto, e al nipote, sottotenente dei cacciatori, caduto nell'autunno del 1914 nella battaglia di Krasne Busk. Io non ho mai visto né lui né nessun altro del ramo nobile della nostra casata. I Trotta nobili erano diventati devoti servi umilissimi di Francesco Giuseppe. Mio padre, invece, era un ribelle. Era ribelle e patriota, mio padre. Una specie che è esistita solo nella vecchia Austria-Ungheria. Voleva riformare l'impero e salvare gli Asburgo. Aveva inteso troppo bene il senso della monarchia austriaca. Si rese dunque sospetto e dovette fuggire. Andò in gioventù in America. Era chimico di professione. A quell'epoca c'era bisogno di gente come lui nei colorifici in grande sviluppo di New York e Chicago. Finché era stato povero, aveva avuto solo nostalgia dell'acquavite di grano. Ma quando infine si arricchì, cominciò ad avere nostalgia dell'Austria. Ritornò sui suoi passi. Si stabilì a Vienna. Aveva denaro e alla polizia austriaca piacevano le persone che hanno denaro. Si procurò amicizie influenti nella cerchia più intima dell'arciduca erede al trono Francesco Ferdinando. Mio padre sognava un regno slavo sotto il dominio degli Asburgo. Sognava una monarchia degli austriaci, degli ungheresi e degli slavi. E a me, che sono suo figlio, sia concesso di dire a questo punto che se mio padre fosse vissuto più a lungo, mi immagino che avrebbe potuto forse cambiare il corso della storia. Invece morì, circa un anno e mezzo prima dell'assassinio di Francesco Ferdinando. Io sono il suo unico figlio. Nel testamento mi aveva nominato erede delle sue idee. Non per nulla mi aveva fatto battezzare col nome di Francesco Ferdinando. Allora però io ero giovane e sciocco, per non dire sconsiderato, frivolo, in ogni caso. Vivevo allora, per così dire, alla giornata. No, non è esatto. Io vivevo alla nottata. Di giorno dormivo. Una mattina fu nell'aprile del 1913. Rincasato da appena 2 ore, ancora intontito dal sonno, mi fu annunciata la visita di un cugino, di un signor Trotta. In vestaglia e pantofole andai nell'anticamera. Le finestre erano spalancate. In giardino i merli mattinieri fischiavano con zelo e il primo sole inondava allegramente la stanza. La nostra cameriera, che fino a quel momento non avevo mai visto così di buon'ora, nel suo grembiule blu mi parve un'estranea. Io la conoscevo solo come un essere giovane, fatto di biondo, nero e bianco, qualcosa di simile a una bandiera. Per la prima volta la vedevo in una veste blu scuro, simile a quella che portavano i meccanici e i gassisti, con uno spolverino vermiglio in mano. E la sola sua vista sarebbe bastata a darmi una nuova, inusitata immagine della vita. Per la prima volta, dopo anni, vidi il mattino in casa mia e mi accorsi che era bello. La cameriera mi piaceva. Mi piacevano le finestre aperte, mi piaceva il sole, mi piaceva il canto dei merli. Era dorato come il sole di primo mattino. Perfino la ragazza in blu era dorata come il sole. Abbagliato da tutto questo oro, sul momento non notai affatto l'ospite che mi attendeva. Mi accorsi di lui solo dopo un paio di secondi. O forse furono minuti. Smilzo, nero, silenzioso, se ne stava seduto sull'unica sedia che si trovava nella nostra anticamera. E come entrai, neanche si smosse. Per quanto i suoi capelli e i suoi baffi fossero così neri e la sua carnagione così bruna, aveva però, in mezzo all'oro mattutino dell'anticamera, qualcosa di solare. Forse qualcosa di un lontano sole meridionale. Alla prima occhiata mi ricordò mio padre, buon'anima. Anche lui era così smilzo e nero, così bruno di pelle e ossuto, scuro, un autentico figlio del sole, non come noi, i biondi, che del sole siamo solo i figliastri. Io parlo sloveno, me lo ha insegnato mio padre, e salutai mio cugino Trotta in sloveno. Sembrò non meravigliarsene affatto. Era cosa ovvia. Non si alzò, restò seduto, e mi porse la mano sorridendo. Sotto il nero bluastro dei baffi scintillava il bianco candido dei grandi denti forti. Mi dette subito del tu. Sentii che era un fratello, non un cugino. Il mio indirizzo l'aveva avuto dal notaio. Tuo padre, cominciò, mi ha lasciato per testamento 2000 fiorini e io sono qui per ritirarli. Sono venuto da te per ringraziarti. Domani tornerò a casa. Ho anche una sorella, ora la voglio maritare. Con 500 fiorini di dote si piglia il più ricco contadino di Sipolia. E il resto? Chiesi. Quello lo tengo per me, disse tutto contento. Sorrideva e a me sembrava che il sole affluisse ancora più gagliardo nella nostra anticamera. Che te ne farai del denaro? Chiesi. Allargherò i miei affari, rispose. E come se solo a questo punto fosse giusto presentarsi, si alzò da sedere. C'era una balda sicurezza in quel suo gesto e una commovente solennità nel modo in cui pronunciò il suo nome. «Mi chiamo Josef Branco», disse. Allora soltanto mi ricordai che ero in vestaglia e pantofole davanti al mio ospite. Lo pregai di aspettare e andai nella mia stanza a vestirmi. Dovevano essere circa le 7 di mattina quando entrammo nel caffè Magern. Cominciavano ad arrivare i primi garzoni dei fornai, candidi come la neve e profumati di rosette croccanti, di trecce al papavero e panini col sale. Il primo caffè, appena tostato, virginio e aromatico, odorava come un secondo mattino. Mio cugino Josef Branco mi sedeva accanto, nero e meridionale, allegro, vispo e sano, e io mi vergognavo del mio biondo pallore e della mia stanchezza di nottambulo. Ero anche un po' imbarazzato. Cosa potevo dirgli? Egli accrebbe dell'altro il mio imbarazzo quando disse: «Io non bevo caffè al mattino, vorrei una zuppa». «Ma certo, a Sipoli al mattino i contadini mangiavano una zuppa di patate». Così ordinai una zuppa di patate. Ci volle un bel po' per averla. E nel frattempo mi vergognavo di intingere il cornetto nel caffè. Finalmente arrivò la zuppa, un piatto fumante. Mio cugino Josef Branco non sembrò prestare alcuna attenzione al cucchiaio. Con le mani brune e villose si portò alla bocca il piatto fumante. Mentre sorbiva la sua zuppa pareva che si fosse scordato anche di me. Tutto preso da questo piatto fumante, che teneva alto con le dita magre e robuste, offriva lo spettacolo di un uomo il cui appetito è in realtà un nobile impulso, e se non tocca il cucchiaio è solo perché gli sembra più degno mangiare direttamente dal piatto. Dirò di più. Mentre lo guardavo sorbire quella zuppa, mi parve pressoché incomprensibile il fatto stesso che gli uomini avessero inventato i cucchiai, ridicoli strumenti. Mio cugino posò il piatto. Vidi che era bello liscio e vuoto e lustro, come se fosse stato appena rigovernato. «Questo pomeriggio», disse, «ritirerò il denaro». Gli chiesi di che genere fossero quei suoi affari che aveva in mente di allargare. «Ah», disse, «una cosa da poco, che però ti procura da vivere per tutto l'inverno». Seppi allora che mio cugino Josef Branco in primavera, estate e autunno faceva il contadino occupandosi del campo ed inverno faceva il caldarostaio. Aveva una pelle di montone, un mulo, un carrettino, una caldaia, 5 sacchi di castagne. Così ogni anno, all'inizio di novembre, se ne andava in giro per alcuni territori della corona. Se però in qualche posto si trovava particolarmente bene, ci passava anche tutto l'inverno, finché non arrivavano le cicogne. Gli chiesi in che modo si potesse dare incremento a un commercio così modesto e lui mi spiegò che si potevano fare ancora una infinità di cose. Per esempio, oltre alle castagne, si potevano vendere mele al forno e patate arrosto. Portava una giacca lucida di raso, un panciotto di felpa a fiorellini con bottoni di vetro colorati e intorno al collo una pesante catena d'oro da orologio, preziosamente lavorata. E io, che da mio padre ero stato allevato nell'amore per gli slavi del nostro impero e che di conseguenza ero incline a prendere per un simbolo ogni trappola folcloristica, mi innamorai subito di questa catena. La volevo. Chiesi a mio cugino quanto costava. «Non lo so», disse. «L'ho avuta da mio padre e lui dal suo. Un'altra così non la si trova in vendita. Ma, visto che tu sei mio cugino, te la vendo volentieri». «Allora quanto?» chiesi. Il cugino Josef Branco rifletté a lungo, poi disse: 23 corone». Non osai chiedere come gli fosse venuta in mente proprio questa cifra. Gli detti 25 corone. Le contò accuratamente, non fece neanche l'atto di restituirmene due. Tirò fuori un grande fazzoletto rosso a quadri blu e ci nascose il denaro. Solo allora, e non prima di aver chiuso il fazzoletto con un doppio nodo, si levò la catena, tirò fuori l'orologio dal taschino del panciotto e poggiò orologio e catena sul tavolo. Era un pesante orologio d'argento fuori moda, fornito di chiavetta per la carica. Mio cugino esitò a staccarlo dalla catena. Lo guardò per un po' con tenerezza, quasi con affetto, e alla fine disse: «Proprio perché sei mio cugino, se mi dai altre 3 corone ti vendo anche l'orologio». Gli detti una moneta da 5 corone. «Neanche questa volta», mi porse il resto. «Anche il tuo panciotto mi piace», disse dopo qualche secondo. «Vorrei comprarti anche quello». «Perché sei mio cugino», rispose, «ti venderò anche il panciotto». E senza esitare un istante si levò la giacca, si sfilò il panciotto e me lo porse al di sopra del tavolo. «È stoffa buona», disse Josef Branco, «e i bottoni sono belli, ma siccome sei tu, costa solo 2,50 corone. Gli pagai 3 corone e nei suoi occhi lessi chiara la delusione che non fossero state 5 anche questa volta. Ora possedevo, a parer mio, l'essenziale per uno sloveno autentico: una vecchia catena, un panciotto colorato, un orologio d'argento con chiavetta pesante come un sasso. Me li presi subito tutti e tre, pagai e feci chiamare un fiaccare. Accompagnai mio cugino al suo albergo. Lo pregai di aspettarmi in serata. Sarei passato a prenderlo. Meditavo di presentarlo ai miei amici. Luciano Virgilio ha letto La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Giovanni Pallanti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.